sing. Esistono gli alieni perché il cielo è solamente un altro limite, che pongono i potenti senza dirci cose nitide. E miti che sono quelle stronzate che stanno in tele. Filtra l'80% e il 20 sono storie vere. Ma vere, più vere sono le stelle che vedi tu. E pensa se lassù qualcuno china il capo e guarda giù. Non vede stelle con bagliori di comete il cielo blu, ma solo i fari tra le luci di motel e BMW. E boom, il mondo esplode perché è sovraccaricato, come quando torni a casa e già qualcosa si è spostato. Ti chiedi chi cazzo è stato non pensando al risultato. Ricorda, esiste più di quello che ti hanno spiegato. Esistono tutti quei mostri che vedevi da bambino. Uccidono tutti i bambini chiusi al buio in sgabuzzino. Esistono nella tua mente, sopportarli un vero strazio. Esistono per sempre se il tuo corpo gli dà spazio. Esistono gli alieni, mostri, demoni e le fate. Esiste il mostro nero nelle stanze abbandonate. Esistono gli spiriti che senti da parecchio. Esistono presenze che non vedi nello specchio. Esistono gli alieni, mostri, demoni e le fate. Esiste il mostro nero nelle stanze abbandonate. Esistono le sagome che vedi sopra il tetto. Esistono presenze che se non te l'hanno detto. Scemo, esistono gli spiriti, il demonio e l'acqua santa, che santifica il suo nome e brucia ogni testimonianza. Esistono le voci al buio e i 12 ritocchi. Esistono bambine che ti guardano negli occhi. Esiste il male perché il male è come il male ed è infinito. Esiste il buio e chi ha paura è perché il buio l'ha sentito, gridando più forte aiuto senza sentire la voce. È un grido muto disperato inghiottito da un'altra luce. Poi le sagome di cose che con gli altri non le vedi, paranoie e chiodi in testa come a Cristo dentro i piedi. Esiste il vuoto dove cadi senza neanche uscirne fuori. Puoi gridare forte aiuto ma se cadi lì ci muori. Fuori, la logica non spiega mica tutte le presenze. Per alcuni sono morte ma per altri sono tendenze. Sono porte chiuse a chiave per dormire meno triste. Ora senti la mia voce pure fette MC. Esistono gli alieni, mostri, demoni e le fate. Esiste il mostro nero nelle stanze abbandonate. Esistono gli spiriti che senti da parecchio. Esistono presenze che non vedi nello specchio. Esistono gli alieni, mostri, demoni e le fate. Esiste il mostro nero nelle stanze abbandonate. Esistono le sagome che vedi sopra il tetto. Esistono presenze anche se non te l'hanno detto.